Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Pubblicato nel maggio del 2009, il rapporto della Commissione per gli abusi sui bambini, noto come Rapporto Ryan, ha evidenziato una serie di violenze commesse dai ministri religiosi irlandesi nei confronti dei minori. Ma come sottolinea Francesco Agnoli sulle pagine del Foglio, le violenze commesse in ambiti scolastici e negli istituti per minori non sono certo esclusiva dei preti, e molte delle accuse fatte ai cattolici si sono poi rivelate clamorosamente false. Alzi la mano chi non ha letto che violenza e pedofilia erano endemici nelle istituzioni religiose d'Irlanda tra gli anni 30 e 90 del Novecento. Chi non ha visto il film Magdalene, subito premiato naturalmente al Festival di Venezia, e non si è sentito civilissimo, bravissimo, illuminatissimo nello stigmatizzare le malvagità di preti e suore. Chi non ha sentito spiegare che per forza quelli là fanno professione di castità, vivono contro natura e poi fanno sesso coi ragazzini o li picchiano per sfogare le loro frustrazioni. Santa indignazione, unita alla consapevolezza di una superiorità morale, unita a una certa goduria in moltissimi catoni odierni che fiondano giudizi definitivi, categorici, assoluti. Non tanto sui peccati, come sarebbe anche giusto, ma sui peccatori. Non sui peccatori come singoli, come esempi della fallibilità umana e della nostra miseria, bisognosa sempre di perdono e di salvezza, ma come emblemi e simboli di una categoria, quella sì, tutta intera, condannabile e colpevole, quella dei sacerdoti, dei religiosi, dei seguaci di Cristo in generale. Eppure, ancora una volta, la realtà sfugge alle semplificazioni ideologiche, alle strumentalizzazioni, alle generalizzazioni e alle indignazioni a senso unico, in cui l'obiettivo è deciso a priori per odio ideologico. Il rapporto Ryan del 2009, che condensa il lavoro della Child Abuse Commission, istituita nel 2000 dall'allora premier irlandese Bertie Ahern, molto duro nei confronti della Chiesa, non dimentica di accennare, sebbene brevemente, anche alla filantropia religiosa. Lo stesso rapporto denuncia su 25.000 allievi di collegi, riformatori e orfanotrofi nel periodo che esamina 253 accuse di abusi sessuali da parte di ragazzi e 128 da parte di ragazze, non tutte attribuite a sacerdoti religiosi o religiose, di diversa natura e gravità, raramente riferite a bambini prepuberi. Quello su cui si sofferma di più il rapporto Ryan, in verità, è il ricorso a punizioni corporali, a volte dure e violente. Valutiamo l'accusa non per sminuirla, ma per comprenderla. Che ex internati in case e carceri denuncino di non essersi trovati bene, lo possiamo immaginare. Forse, di fronte a tali denunce, dovremmo anzitutto chiederci quanto esse sono inevitabili. Inoltre, sono tutte vere? Quanto considerano che la durezza del luogo in cui si trovano non doveva essere poi tanto peggiore, anzi, da quello che avrebbero vissuto fuori, sulla strada, tra prostituzione, miseria e criminalità? Quanto le accuse tengono conto della difficoltà del compito affidato agli educatori stessi, costretti a fare in qualche modo i secondini per tutta la vita? Tanto più se, come è successo in Irlanda, dietro la denuncia di abusi e violenze subite, vi era la possibilità offerta dal governo nel 2002 di ottenere dei risarcimenti in denaro. Tanto più se chiedere questi risarcimenti poteva giovare a chi non viveva certamente condizioni agiate. Ricordo quando insegnavo in una scuola professionale e avevamo di questi ragazzi, figli della prostituzione, talora senza genitori o con altri drammi alle spalle. Vivevano in case laiche, gestite da laici, con soldi e impiegati statali. Un giorno una di queste ragazze estrasse una lametta e tagliò tutto il braccio di una professoressa. Non era una ragazza facile. Chi la accudiva tutti i giorni, talora avrà perso la pazienza, ne sono certo. Talora avrà urlato, alzato le mani, senza essere un mostro. Non era un mostro neppure Vincenzo Muccioli, che ha dato la sua vita per salvare migliaia di drogati dal degrado più nero. Eppure quanti hanno voluto dipingere San Patrignano per motivi ideologici come un lager, come una prigione, perché in una simile realtà successero violenze e soprusi. Ma soprattutto, inquadriamo questi fatti, l'uso cioè di pene dure, corporali, di punizioni severe, nel loro contesto storico. Lo stesso Peter Mullan, regista del film Magdalene, ha esplicitamente affermato che i metodi utilizzati in Irlanda erano gli stessi della Gran Bretagna, non solo nelle workhouse, ma anche nei collegi bene delle élite inglesi. Non era così anche da noi sino a 40-50 anni fa? Le pene corporali, le punizioni severe, le bacchettate sulle mani erano considerate normali, non dico nei riformatori, ma nelle scuole di ogni ordine. E se allarghiamo lo sguardo, possiamo pensare a quello che succedeva nei nostri manicomi statali, non al cottolengo gestito dalle suore, prima che la legge Basaglia privatizzasse i drammi, violenze, botte, abusi, reclusioni. Anche qui, però, non di tutti, anzi, forse di una minoranza. Perché dimenticare, come si fa di solito, quanti servirono con amore i malati di mente e lo fecero nonostante la durezza del loro impegno quotidiano? Quando si insiste sull'Irlanda cattolica, sulle sue suore e i suoi sacerdoti, per screditarne in toto la storia, dunque, non è la sacrosanta condanna dei colpevoli che disturba. Si dicesse che preti e suore che hanno abusato meritano pene terribili, non ci sarebbe certo da obiettare. Lo ha detto chiaramente Benedetto XVI, collegando queste miserie e atrocità ad una innegabile crisi della Chiesa. Quello che disturba è l'ipocrisia, il tentativo di generalizzare, il voler fingere che esista un'umanità senza peccato, che può additare come reproba un'altra parte dell'umanità, colpevole, per colpa originaria e indelebile di seguire Cristo, talora con grandezza, talora traendone e smarrendone l'insegnamento. Pensiamo al film di Mullan. Perché lo scozzese e marxista Mullan ha fatto un film sulle Magdalene irlandesi e cattoliche e non, per esempio, su una workhouse scozzese e protestante o su un orfanotrofio dell'est di oggi? Perché lo ha fatto così parziale, manicheo, di parte? Basta leggere alcune sue dichiarazioni per capirlo, per comprendere che all'origine di quello che vuole essere un documentario storico oggettivo vi è invece un fortissimo pregiudizio di fondo. La Chiesa non differisce troppo dai talebani, istiga alla crudeltà anziché alla compassione, trascinando la società in una spirale di follia collettiva. Mullan, il suo film, i suoi numerosi e ardenti discepoli, in verità servono a nutrire odi e pregiudizi, più duri da spezzare delle pietre, ad alimentare la falsificazione e l'inganno. Penso al libro di Katie O'Brien, che narra di terribili violenze che lei avrebbe subito nelle Magdalene Laundries. Un bestseller da 350.000 copie, spacciato come vero ma smentito prima dalle suore. La O'Brien non è mai stata da noi. Poi, con sdegno, dalla stessa famiglia dell'autrice e infine anche da un giornalista, Herman Kelly, del Mail on Sunday, che ha dedicato un intero libro, La vera storia di Katie, per smontare l'operazione mediatica ed economica della scrittrice. Penso a sacerdoti innocenti come padre Kinsella o padre Brendan Lawless, vittima di una donna che era pronta ad accusarlo pubblicamente di violenza se egli non le avesse dato del denaro. Penso ai numerosi casi di religiosi ingiustamente accusati al fine di estorcere denaro. Penso a Paul Anderson, condannato a 4 anni di carcere per aver accusato padre X, un sacerdote dell'arcidiocesi di Dublino, rimasto anonimo, di aver abusato sessualmente di lui 25 anni fa, durante la preparazione alla prima comunione. Il giudice Patricia Ryan ha spiegato nella lettura della sentenza come Anderson, segnato da tossicodipendenza, tendenze suicide e debiti personali, avesse costruito racconti infamanti contro padre X per un fine molto semplice: estorcere quattrini alla Chiesa. Penso ancora al clamoroso caso di suor Nora Wall. Quest'ultima è un'anziana ex suora della congregazione delle Sisters of Mercy, condannata all'ergastolo per lo stupro di una minorenne nel 1997. La sua colpevolezza era stata affermata in seguito a ricordi emersi confusamente nel corso di una psicoterapia della presunta vittima. Nora è stata poi assolta 2 anni dopo, una volta constatata la sua assoluta innocenza. Per 2 anni ella fu per gli irlandesi la suora pedofila, la religiosa che procurava bambini ai sacerdoti pedofili, il mostro dell'Irlanda, il diavolo Wall, sbattuta in TV e sui giornali con assidua frequenza. Penso infine agli 8 vescovi irlandesi, su 26, accusati ingiustamente di pedofilia, come dimostra Rory Connor, e alla battaglia di Florence Horsmans Hogan, un'infermiera protestante cresciuta in una specie di Magdalene Laundrie delle Sisters of Mercy, che ha creato un'associazione, Let Our Voice Emerge, con chi vuole ricordare anche il bene fatto da tante suore e ragazze molto problematiche come era lei. Anche perché, ha dichiarato, le vere vittime, le cui terribili ferite non possono che generare profonda compassione, non siano confuse con gli approfittatori, i furbi, con coloro che cercano solo fama o risarcimenti economici, o che sono pronti a cavalcare gli scandali per motivi di pura avversione ideologica. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Francesco Agnoli, Il peccato carnale irlandese, dal Foglio del 14 maggio. Letture di Radio 24. In Afghanistan, negli ultimi due anni, i talebani hanno ucciso 235 professori e alunni. Lo scopo è quello di convincere le bambine a rinunciare a studiare, dato che gli integralisti islamici temono che, emancipandosi, le donne possano sfuggire al loro controllo totale e ad ogni attentato, purtroppo, il numero delle studentesse diminuisce. La guerra dei talebani contro l'istruzione femminile passa ormai dall'uso massiccio di gas contro le bambine nelle aule. Decine di studentesse afghane sono state ricoverate la scorsa settimana dopo essere rimaste intossicate in seguito a nuovi attacchi portati con armi chimiche contro due scuole, dopo analoghi attentati avvenuti in queste ultime settimane. 30 alunne di una scuola a Kunduz e altre 6 di un istituto di Kabul sono state ricoverate. Una delle vittime ha raccontato di aver visto un uomo con abiti scuri, la bocca e il naso avvolti in un panno, lanciare una bottiglia nei pressi della scuola. L'effetto è quello desiderato: la chiusura della scuola e la riduzione radicale della presenza di bambine nelle aule. Il giorno dopo si sono presentate sui banchi solo 40 allieve su 600. Alcune delle studentesse sono in condizioni molto gravi, perché il gas sparso brucia l'apparato respiratorio. 4 giorni fa a Kabul, in 22 erano state ricoverate dopo un altro attacco chimico. E l'anno scorso, uomini contrari all'istruzione femminile hanno lanciato acido su un gruppo di studentesse a Kandahar. Nausea, vomito, svenimenti, le membra semi-paralizzate. Un misterioso veleno, il gas dei talebani, sta mietendo centinaia di vittime nelle scuole femminili dell'Afghanistan settentrionale, anche se il contagio si è esteso alla capitale Kabul, con 9 studentesse colpite alla Shina Bagrami High School. Il grosso degli attacchi islamisti contro il diritto delle ragazze a studiare si è però concentrato a Kunduz, vicino al confine con l'Uzbekistan, una zona sotto il controllo tedesco. Ero in classe quando ho cominciato a sentire uno strano odore, come di fiori, ha raccontato sua Malia, 12 anni. Ho visto che le mie compagne di classe e l'insegnante si accasciavano. Quando ho riaperto gli occhi, ero in ospedale. L'ultimo rapporto di Save the Children dice che tra il 2006 e il 2008 ci sono stati 2.450 attacchi alle scuole. 235 fra alunni, insegnanti e altro personale scolastico sono stati uccisi dai fondamentalisti islamici. 300.000 bambine afghane non potranno accedere all'istruzione a causa della violenza innescata dagli studenti di Allah. Nel sud e nell'est del paese, dove i talebani controllano città e villaggi, le scuole femminili vengono chiuse, gli insegnanti subiscono minacce e ci sono stati casi di bambine sfigurate con l'acido. Una fatwa del Mullah Omar identifica uno dei principali nemici del jihad proprio nell'insegnamento. Non è consentito lavorare per il regime fantoccio, né in una madrassa né come insegnanti di scuola. I musulmani dovrebbero studiare in moschea. È in corso la più grande campagna di liquidazione delle scuole dall'abbattimento del regime sharia con talebano nel 2002. Ma ci sono anche notizie positive, come la frequenza record di 6,5 milioni di studenti. Il 35% sono bambine, alle quali il regime talebano aveva sempre impedito l'accesso all'istruzione, fino alla sua caduta. Il gas dei talebani aveva già colpito nel maggio 2009, quando a finire in ospedale erano state 90 ragazze nella provincia di Capisa. Ci sono anche madri che vengono rapite per negare la scuola alle figlie. C'era un terribile odore in classe. L'insegnante ci ha detto di uscire, ma non ci siamo riuscite. Non potevamo camminare. Ci sentivamo davvero male. E quando ho riaperto gli occhi, ero in ospedale. Ha raccontato Leda, 12 anni, una delle bambine intossicate. Sono così triste. Che cosa c'è che non va nella mia scuola? Voglio studiare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giulio Meotti, Gasare le bambine afghane che vanno a scuola, l'ultima dei talebani, dal Foglio del 13 maggio. A un anno dal suo insediamento, Obama non sembra affatto intenzionato a chiudere il carcere di Guantanamo, come promesso durante la campagna elettorale. E la ragione, secondo Angelo Panebianco, è che la recente strage evitata a Times Square dimostra come il terrorismo islamico rappresenti ancora un grosso pericolo per l'Occidente. In barba alle promesse elettorali, Obama, a oltre un anno dal suo insediamento, non è ancora riuscito a chiudere Guantanamo. Dovremmo forse considerarlo un criminale di guerra? Se il pubblico europeo che affolla le sale per applaudire il più politicamente corretto dei film in circolazione, L'uomo nell'ombra di Roman Polanski, fosse coerente, dovrebbe rispondere di sì. In quel film Tony Blair e George Bush vengono trattati, senza dubbi di sorta, da criminali di guerra a causa delle redentions, i sequestri e gli interrogatori di sospetti terroristi del periodo post 11 settembre. Guantanamo, formalmente, appartiene allo stesso genere di violazioni della legalità internazionale. E allora, come la mettiamo con Obama? Lasciamo da parte il film di Polanski, il cui successo si deve, oltre che alla fama del regista, anche al fatto che l'anti-americanismo di tanti europei trae maggiore soddisfazione dalla visione di un'opera del talentuoso Polanski, uno che sa fare cinema, che non da quella di un barboso documentario di Michael Moore. Resta il problema. Guantanamo, le redentions, crimini di guerra, punto e basta, come suggerisce Polanski, oppure tentativi eterodossi di apprestare difese contro quella particolare forma di guerra in cui gli aggressori non sono soldati in divisa e le cui azioni militari non hanno per bersaglio altri soldati ma pacifici cittadini che lavorano in un grattacielo, girano in metropolitana, volano in aereo o affollano una piazza. Ciò che stava per accadere a Times Square pochi giorni fa, una strage evitata per un soffio, ma anche altri falliti attentati in vari paesi europei, Italia compresa, degli ultimi anni, ci ricordano che la minaccia terrorista non è finita. Tenteranno di colpire e colpiranno ancora. Tenteranno di farlo i jihadisti della domenica, i cani sciolti, con mezzi artigianali, e tenteranno di farlo i gruppi organizzati, quelli tuttora alla ricerca di mezzi di distruzione di massa, bombe nucleari sporche, armi biologiche, da usare contro gli infedeli occidentali. È dubbio che lo Stato di diritto del tempo di pace e il diritto internazionale offrano sufficienti mezzi di prevenzione e protezione. Per questo Guantanamo non è stato ancora chiuso. E per questo bisogna pensarci due volte prima di trattare da criminali gli statisti che hanno cercato di fronteggiare il pericolo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Angelo Panebianco, Questione Guantanamo, dal numero 19 del settimanale 7. Prima dell'invasione ottomana del XIV secolo, il Kosovo era popolato esclusivamente da serbi. Già agli inizi del Novecento gli albanesi inviati dagli ottomani per popolare e islamizzare il paese costituivano il 30% della popolazione. Oggi sono il 92%, mentre la popolazione serba, che nel 1999 ha subito un'epurazione etnica, costituisce ormai solo un'esigua minoranza. Dopo gli attacchi albanesi alla popolazione serba nella Pasqua del 2004, è nata l'associazione umanitaria francese Solidarité Kosovo, che si occupa di sostenere la minoranza serba. Un'attività resa importante dal progressivo ritiro delle truppe internazionali e dal silenzio mediatico intorno al Kosovo, come racconta Arnaud Borrella, presidente dell'associazione, in un'intervista rilasciata al periodico L'Uomo Libero. Media e politica sono indissociabili. C'è un silenzio mediatico oggi intorno alla questione del Kosovo, perché non vi è più nessun interesse politico a riguardo. Gli americani hanno creato e dominano uno stato fantoccio, dannoso per loro svelare le zone oscure che macchiano questa indipendenza. Il comportamento degli albanesi è inoltre cambiato. Non sono più in fase di conquista. Commettono meno attentati spettacolari, ma esercitano una pressione costante sugli ultimi abitanti serbi della regione. Il ritiro progressivo delle truppe della KFQR, la Kosovo Force, non ha per motivazione la pacificazione progressiva del Kosovo, ma il bisogno crescente di soldati per l'Afghanistan. La crisi finanziaria che colpisce tutti i paesi, inoltre, non permette più il mantenimento di un numero elevato di soldati in operazioni esterne. Anche questo ha amplificato il fenomeno di diminuzione degli effettivi delle truppe internazionali in Kosovo. Nonostante i rapporti dell'ONU descrivano una situazione calma e pacificata, il 17 e 18 marzo 2004, giganteschi pogrom antiserbi e anticristiani scuotono tutta la regione. Migliaia di persone sono evacuate, centinaia sono ferite. 19 sono brutalmente assassinate. Oltre 30 chiese, forte simbolo della loro identità, sono incendiate. I militari sono incapaci di prevenire o di contenere queste sommosse. A marzo 2004 erano circa 20.000 i soldati della KFQR sul posto, oggi meno di 10.000 soldati. Come potrebbero riuscirci? La situazione si è evoluta, ma non è migliorata da quando gli albanesi musulmani hanno proclamato l'indipendenza. Gli attacchi contro i serbi continuano. I rifugiati non possono tornare a casa loro. Le chiese sono distrutte o svaligiate. I serbi non possono circolare senza scorta militare e la maggioranza della popolazione cristiana vive in ghetti circondati da filo spinato, chiamati enclave. Ovviamente i grandi media preferiscono tacere. È più facile dissertare sulle favelas del Brasile che dei ghetti d'Europa. Si preferisce sempre vedere la miseria che ci sta lontana e sulla quale non si può agire. Noi pensiamo il contrario. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'intervista ad Arnaud Borrella, presidente dell'associazione umanitaria Solidarité Kosovo, dal numero 1, primo semestre 2010, del periodico L'Uomo Libero.